è? Chi è? Antonello. Eoci. Ciao, grazie. Graziano. Avanti, chi è? Bimbia. Sì, sì. Poi fingi. Ma come? Apparato? Sì. La signorina, poi fingi. Eia, boyfriend, sì. E UVRA5. Ah? Eia. Ma Giulia della batteria, buggy swing. Solo quello lì non ce l'ho più. La batteria, quella più grossa, la 3008. Ma 3008, E vabbè, vabbè, lo dico una biglia, mi paga. Convinto che ci stesse a questo, invece non va bene. Perché la batteria neanche alla radiolina, a questo. Non va. No, è differente, è per l'UV5 che l'ha già addosso a mano, è stato ma giù visto. Ah, e quanto la sta vedendo quella batteria? 16 euro l'ho pagata, qua c'è 3-4, è la busta. Adesso l'ho presa a misurare, mi metto coordinato per quell'altro che ho dato stamattina, intanto c'ho questo, se me ne posso dire. Ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito. Mica la do più buono. Ma scusate, nella strada più luce. O che se fa. E lui già mi brucia la luce. Giustamente. Se vai paga, non ho capito. Sì. Sembra che ce la poi va, tanto dopo uguale. Che lo so. Perché sto. Questo è diverso, è il GT3 questo. Ho capito. Sembra uguale, ma invece non è uguale uguale. Il procedimento... No, non è uguale, non è uguale. No. Non è uguale, no. Poi ha mormito. Sono già un paio di giorni senza sentirlo. Già sono in nuovo, chiama. Frequenza PMR, non è una frequenza da lavoro, non mi risulta, però qua ci parlano altre radioamatori, non parlano frequenze lavorative, non ho capito, dipende dove ti trovi tu, vai e fatti un cabiciare i sabbioni, vai, sta attento col cuore nominativo, stai attento. Aspetta che ti chiamo al telefono. Vieni, avanti, ve lo bene. Cosa c'è? Antonè, tu sì. Eia. Aspetta un attimo. Antonè. Dimmi tutto. E cosa stai facendo? Stavo sistemando quelle segreterie telefoniche che mi sono rimaste e me le ho lasciate a casa. Segreterie telefoniche per casa. E si aggancia al telefono, c'è il nastro e registra. Quando tu non ci sei in casa, in pratica funziona in automatico. E quello ce l'ho anch'io, quel telefono. Serve sempre, quando non ci sei, almeno risponde la segreteria, capito? Vabbè, ormai c'è il coso, quindi non è che te ne fai molto. Ci sono c'è il telefono normale. Già lo so, nel tuo sì, ma io ho quella. Sono nuove, ma sono modello vecchio, capito? E ora se ne fai più d'occhio, a dammi 5 euro. Ui, ma con le porte. Dalla casa di Luigi, via. Grazie. una quasi più bella come. Già lo porto da cosa, lo porto? Lì a, come si chiama? Dove danno la roba per i poveri? Lo do lì e si arrangiano. A qualcuno già le servirà. Tanto a regalarlo così per 10 euro a Pinocchio. A farmi prendere per il culo e me glielo regalo. Adesso che hanno aperto quel centro, il Pinocchio vuole. Gente che vuole. Aggiungiamo a vendere macchine usate, non le... Già lo so che vende macchine usate, ci ho provato l'Apollo un giorno io. Mi voleva dare, aspetta, mi voleva dare 600 euro, hai detto ascolta con 600 euro te ne vai a cagare, gli ho detto. Cazzo, quell'Apollo che c'ha per vingare, chi c'è la mafia? Sì, 600 euro mi voleva dare, hai detto vai, fatti una cagata, gli ho detto vai. Ragazzi, non sei macco, gli ho detto, io te la lascio 600 euro e tu te la vendi 2005. Cazzo, aiuto. Io quando l'ho detto a mio però mi ha risposto che la poteva comprare, perché c'è la polo uguale a quella. L'ho detto a mia sorella, adesso se la tiene lì, mi ha detto già i soldi, 600 euro l'ha già dati. 1200 gliel'ho data. Io gli ho detto, la senti io. C'è la bocca, quando te l'ho chiesto lo sai. Sì, ho capito. E vabbè, oramai. Non posso nulla, ce la faccio. Il garage oramai è vuoto. È a posto adesso. La sua unica cosa, queste cose che non mi servono le porto di là e poi già le danno ai poveri. Così almeno sono contento che le danno ai poveri, no? A sgobbarci. Ah, che ci sia, il basso fai bene. Anche io molta roba l'ho regalata, ma così ne aggiungo. E invece ne aggiungo lampada, mi l'altro giorno ho regalato anche un DVD dove metti i film, i dischetti. Nuovo nuovo, se l'ha piazzato, mi ha telefonato, funziona benissimo, e lui, come io ne ho un'altra cosa me ne vuoi. Detto te prenditela, non le parlo due. E DVD ne ho quattro io. Uno ce l'ho giù da mio fratello, si mette in CD, uno ce l'ho buttato perché non me ne fregava niente, piccolino, per la macchina. E l'altro DVD è qui, lo uso io a casa. Poi c'ho due videoregistratori e 200 cassette c'ho. 200 videocassette. Io ce l'ho in salone, non mi tratto quasi mai. L'ultima volta mi ho guardato un filmino West. Uno che sta alle uglie, però non è uso quasi mai. Mi dà via in più, lo sappiamo i pulini, mi dà già battito. Ma andrete un pozzo, grazie. Ah, ti serve, allora, già mi serve, figlia di tutti, e glielo lascio. Hai fatto bene, hai fatto. C'è anche la macchina da scrivere io, figurati. Mi ce l'ho conservata qua. Padre, da un pozzo è Graziano. Quella ce l'ho buttata, già una di... Chi è che sono in un pozzo? Alton. Chi è? Dimmi. Graziano, lì è dentro un pozzo. No, ciao Fra. No, non è dentro un pozzo Graziano. Evidentemente è spostato... Di solito lui si mette in veranda, cioè nel terrazzino, capito? Arriva bene qua. Fra quel risorso che ti vuole, Graziano. Fra in cucina, Graziano, col portatile. Io non lo sento però. Non lo sento per niente, Antone. Tu non ti senti per niente, Graziano. Di solito si ti sentiva sempre. Ma fuori in veranda non ci vado che c'è freddo. Salutamelo da parte mia. E quando mi sentiva al limite mi sentiva con l'altra antenna. E infatti, senz'altro, con l'altra antenna ti sentiva sì. Ha detto Fra che di salutarti, che lui è adesso in cucina e quindi non ti sente. Io. E tu, Antonè? Ma non avevi l'antenna fuori. Ho capito, l'antenna? Ho detto, non c'avevi l'antenna fuori, come mai arrivi anche tu a tratti? L'antenna ce l'ho fuori io. Scusa, no, la antenna esterna. È strano che arriva tardi a tempo. E ogni tanto perdi, però comprensibile. Ti sento bene io invece. È strano, non ho toccato niente, l'antenna è sempre la stessa. L'unica cosa è che devo cambiare il PL, perché non è che sia quei PL LGBT, li passi il saldatore a 40 watt e si sciogono in mano. Ecco. Bene, mera. E invece Graziano è sempre andato un fosso. Boh, non si intende mai niente. Boh. Anna, in 27 è una bomba. In PMR non si intende più. Guidatemi. Ciao Marco. Oi oi Antonello, sempre non così. Ciao Franco, mi copi? Franco, lo senti a Marco? Chi è? Marco Condo? Eia. Negativo, eh? Neanche a lui. Neanche qua mi sei, bello bene. Ah, se vai a sei Big Panther, io. Qua ho saltato il braccio di mezzo metro. Queste radio sono così, fra. Lo so, Graziano, lo so. Poco fa non ti sentivo niente. Adesso sì che sei tu. Sono con l'antennino, mi. Cappa. Guarda che c'è un gatto lì vicino a te. No, un cane, certo, un mito è nato a Lucino, su Ragheni con la Gabù. Ui, che. Vabbè, dai. Ripeti a te. E il gatto era cosa, Paola, che si dita io, facendo miau. Siccome sta andando alla scuola di ballo e mi sta battendo, mi ha miau. Alla scuola di ballo sta andando, Coco. E allora, il tango, la barzucca, il cia-cia-cia. Accorsi, gente. Il tango c'è la mazzucca. Ehi, ballano il Charleston, l'uomo di invece. Avanti, Marco. Purtroppo sto... Anche il ballo del qua, Tore. Tanto qua è inutile. Non è più usata la 27. Oh, cervello, no? Ma il... Tore. La 27. Ciao, la usiamo, aspetta. Caduto c'è Antone. Non stai uscendo. Questo è il ballo del qua qua. Qua qua qua qua. Non sei uscito, no, me lo me. Tutti morti. Aspettasi. Ebbe Antone, anzi sì, morto sì. Avanti. Beh, tutti morti siete stasera. Ciao. Mormiti siete, che vi piace poco lì. Ah, mi dà, c'è tra mio o no? Non fa bene, no. Mi lo sto guardando, non fa bene. L'ho guardato, amicelo. Catta, vuol dire che c'è specificato male scrivendo che... allora vedo a qualcuno che l'andare... La vedi quella batteria? Bisogna vedere a quale radio ci va bene, o a quella di Lucca, o a quello di l'altro Lucca, non lo so, In questo non va bene, in quell'altro non andare perché è più curvata la sagoma dell'incasso e non andare. Di la Lucca queste cose, lui magari sa queste cose, sa quale va bene e quale va bene, eventualmente trova qualcuno e la vende eventualmente, capito? Lo so, però ce la posso dire dietro e gli dico che hanno sbagliato, me la posso giamba, 16 euro l'ho pagata. E allora fai così, dici che la spedisci, che non va bene, quella batteria non la vuoi, e te la fai cambiare. E all'altro Luca, ci lavo niente, mi dà se mi dina che la giocata, c'è un computer, il prezzo 16 euro, a che 30 la cassa. Infatti costano 16 euro, infatti. fatto strano, ma ti hanno mandato la batteria dal 2008, ti hanno mandato in quell'apparecchio, no? 2008. Ah, 3008. Quella ce l'hai, quanto ne hai? Uno o due di quella? Allora quella da rimandare indietro, te la fai cambiare, capito? E te ne pido un'altra per il GT3 di quelle grandi, capito? Allora tocca dirla per forza quella lì. Sì, ma se va bene, per un altro poi venghi. La busto quindi a cacca di uno, se no ce la rispedisco indietro. Infatti, allora. No, la stessa te la fai cambiare. Ok, dammi 10 minuti, sto facendo cosa. Sì, anche nella scatolina ha scritto X00RN5ZQZ. Poi NBW28020183-17-25. E questa non va bene, secondo me hanno sbagliato. Allora hanno sbagliato, sì. Hanno sbagliato loro, per cui la rimandi dietro e ce la cambiano. I loghi non andava bene, non in caccia, e la P è pure diversa la sangue. È più curvato e gli dà la zago, ma è precisa, arrivi sino al suo all'incasso, però ci sono 5 mm anche di meno, però la fa agganciare, non incassa. La giabella davvero non venuta di strano, ci sono questi dentellini. Però ha detto, si è faccio questi dentellini, bastasse di più, e la poi non andava. Cosa me ne posso, ha già rovinato la batteria. Tu, cazzo, se sentite che hanno sbagliato, ne vuole un altro per il GT3. Per il GT3. No, quella che ti hanno mandato. Hanno sbagliato loro. E glielo dici che vuole la batteria per il GT3. No, la batteria, questa batteria del GT3 non va bene. Poi è la sua proprio. Sì, adesso domani se viene quell'amica di Chicca, perché me l'avevo fatto scrivere da lì, me lo faccio fare e la rispedisco dietro, a meno che non andiamo o a Luca 1 o a Luca 2. Bisogna provare, Chi è avanti? È aperto. Avanti, bello bene. Avanti! Bello bene! Ehi, va tanto buio, ti vai vedo, non ti vuoi! Vai! Fatto! Cuffo! Si sta sbarbando, si sta! Sta facendo bello, dice, perché stanotte dice vuole fare colpo con Rusi. Sì, mi si quasi quasi bonetta quasi. Non si ha detto questo. Colpo. Tu io quel padre, poveretto, cazzo. Domani chi si quasi qua è pure la sabonetta. Adesso in piazza sabonetta. E secondo me anche tu, che quando era dietro ti hanno fatto il giochino. Ma che è sempre un guida sabonetta, sabonetta. Dai, rientra, vi udimo. Che parla dalle spalle, bella pe. Ciao, caruccia. Luca, quella batteria che ho ordinato non va bene, né la UVRA, quello là, e neanche a questo. Volevo vedere se al tuo ci sta, se te la compri, se ci sta, se non la rispedisco indietro. Scusate, ma se abbiamo la stessa radio, ma cosa a me va bene, uno più fa due in casa mia. Tu sei la sabonetta. No, questo non lo so se è uguale identica al tuo, perché questa è l'ultima generazione. GT3 c'ho come il tuo, 3TP, uguale al tuo. GT3TP, e non va bene, non ci sta, e invece nell'altro, nell'UV5, quello là, UAR come sei, ma non me la metto, anche me la già venduto. Quello lì non ci sta lo stesso. Copiato. Scusa, grazie, stavo parlando con Marina. Sì, io ho copiato. Mandagliela indietro. A me già mi fa bene questa qua. Quando non dura, passi via, più brutto, come no. Questa è originale. Solo che non va bene per questo. E mi manco, paghi già pure io, l'ho specificato bene. Nel computer. Ah va. Se non è che magari va bene a quello che c'ha Luca a gusto, non lo so. Se va bene, se interessa lui, se non la rispedisco dietro e mi faccio mandare vita. Sempre che non abbiano sbagliato loro. Qua c'è una matricola scritta. Vabbò, dai. Beh, dai, che adesso io mi devo lavare perché sono un bel sporco, dai. Ci sentiamo magari dopo, se ci siete. Se siete a baracchino, pazienza, ci sentiamo dopo, ciao. Eia, e chi te le spalle? Aspetta la saporetta. No, però la vasca, la bagnoschiuma, nessuno mi lava, me la lava la vasca, la schiena stasera, dai. Se ti interessa la vasca, io ce l'ho nuova, No, se vuoi c'ho un massaggiatore, una vasca idromassaggio da vendere, ti interessa, 50 euro. No. Mi dura compagnia. Vabbè, se me la piazzi pure te la compro anche domani. Se me la piazzi anche, te la compro domani. E da Luca Flipper, gufo, che poi la collaba. Fa vedere come fa, funziona bene la cava. No, ti sto ascoltando. Quella batteria non ti va bene, non va bene nessun apparecchio, mandasela andaretto. Non lo so, sì. Guarda qua, tu c'hai, se hai sbagliato tu, non te ne cambiano, Se hanno sbagliato noi, non te la cambiano. Tu c'hai i dati come l'hai richiesta, no? Guardati se hai sbagliato tu o se hanno sbagliato loro. Se hanno sbagliato loro, pigli, ce la rispedisci indietro. Figaro! Chi è? Buonasera! Buonasera, signor Figaro, buonasera, signor Graziano. E adesso metti a bollire la batteria. Buonasera a tutti e due, avanti di Gianmarino. Ok, buonasera, ma che bene traccia. C'è una batteria che non gli va bene a Graziano, l'ha ordinata. Adesso ci hanno sbagliato loro, ci ha sbagliato lui ordinandola. Non ci sta, così che la deve rispedire indietro. Ho detto, tanto c'è l'ordine come l'ha raccomandata, come l'ha presa, no? Si guarda quell'ordine, si ha sbagliato Graziano, la spedisce indietro e gliela cambia, se no non gliela cambiano, No, si ha sbagliato Graziano, no, io ti ho mandato quello che mi hai chiesto, capito? Se ha sbagliato Graziano non la cambiano, no, ma se ha sbagliato loro la cambiano. Basta leggersi l'ordine che ha fatto, si corrisponde o no. A qua che uno mi ha un ACRR. Allora non è la sua. Allora di domani, i telefoni, guardi, mi avete mandato la batteria sbagliata, me la sto rimandando indietro. Scusa. No, sei a posto, avanti Giovanni. Allora hanno sbagliato loro, cioè come sta dicendo lui, Graziano. La deve spedire, gliela cambiano. Se gliela cambiano, sì. 0, 0, 5. Ma se non incassa non è la sua, Graziano. Se non incassa, che va dentro, non è sua. Allora non fai altro che il computer e fai due righe e dici che quella batteria non va bene, che avete sbagliato, adesso ve la rispisco dietro e voi la batteria precisa a manfetta GT3. Boh, ecco, tutto lì. Già lo so, domani, oggi non ha giocato. Allora andrà a giocare io. Adesso andrà a macchina. Che potrebbe andare bene, mi sì. Se con la lima limo quelle due alettine, sale già in cassa, perché sono due alettine che ci sono, che non lo fa raggiungere all'incasso. È questione di 2-3 mm, non per altro, è quasi, quasi in cassa. E allora, figlia arriva e lo stai a perdere te, fa fare pacche, pacchetti. La Limi, ti hai il piede dentro, boh, e te lasci. Ed è finita. Se così i millimetri cosa noi c'hai a far pacche, pacchetti, no? Sì, ma io quello là non ce l'ho più, l'ho già venduto. E questo va bene per il boyfriend UVRA, capito mi hai? Sì, UVRA, ma a GT3 non va bene? No, a GT3 non manca a fianco, è diverso, burro la curva. Questa io l'avevo ordinata per l'UVRA, quello là, quello che ho venduto. Capito? Ah, ho capito. Va bene, e allora, ferisci la età fa mandare nuova al baffo. Gliela spedisco, se no è che andava a caffè duro, quindi boh, non lo so, se no io gliela spedisco dopo domani. Glielo scrivo e mi posso mandare una paio, che tanto che tu me l'hai già venduto. Avanti, c'è il bacchino. Guarda, se gli dici che io ci ho l'apparato così, così e colà, e mi devi mandare la batteria per questo. Capito, grazie, spiegaglielo. Però questa io l'avevo ordinata per non stare con quelle altre due batterie che ogni anno la devi abbonare a caricare. Questa invece ti fa anche per 3 giorni. Siccome io ho letto le sigle e c'era anche questa grande come quella che ho qua nel GT3, anche per il Boyfeng UVAR, allora gliel'ho scritto la marca del baracchino UVAR eccetera eccetera, che volevo una batteria da 3.800 e mi hai mandato vista, però per un po' io di millimetri non incassa nel suo incasso dove c'è la levettina che premi per sfilarla, capito? Adesso tu domani glielo spieghi a quel signore lì e vedi un po'. Glielo spieghi com'è la situazione, se mi serve per quell'apparato lì, per la radio. Vuol dire, erano dormiti. Pure me, manda pure me, grazie. Adesso no, domani, avanno una giubbrù più su una gana. Domani gliele mando e vi lo dico. Tanto dentro la scatolina le poste mi mettono una busta, tanto mi arrivi di tramite poste questo. Sì, quelli che fanno le cose ben fatte lì, grazie. Può anche capitare, ma sa, raramente, capito? Perché quelli vanno a ordine, vanno, capito? Non è che facciano la cosa così, allora me ne prego, perché va a finire fuori dalla nazione, per cui fanno le cose giuste, dai. Però può anche capitare lo sbaglio, ecco. Avanti, c'è da chi? Male, tu malino. Ecco le mani. Tosse, c'è freddo stasera. C'è freddo veramente stasera, ma te l'ha detto ieri notte. C'era aria fredda e vento forte e mi accoprisce che se non ci pide un malanno poi cazzo sceso in magazzino, cazzo dico che sono tipo il portone, cazzo è un frigorifero, peggio del frigorifero. Sì, quel portone passa corrente, è peggio, passa la corrente lì, è proprio da prendere un malanno, Mamma mia, poi sto vado, cioè fai un botto, gatta. Ma freddo, ma freddo veramente, gatta, ma con calato. sei, vabbè, tempo su e bacchi, il prete lo deve anche fare. Sì, ma è venuto tutta una volta, non siamo abituati, invece gli altri anni veniva piano piano, piano piano, non ti accorgevi, adesso invece dal caldo al freddo, e le sentiamo, quello lì lo sentiamo. È per quello che siamo tutti pieni malanni. Davvero, è per quello che siamo tutti pieni malanni, ma chi? Proprio così, i malanni arrivano proprio per quello. Invece Graziano no, Graziano si è tutto punto, si è tutto vaccinato e niente malanni. Ehi, ma che te lo sto dicendo io? Ho detto che tutti gli anni noi li facevamo i vaccini, tutti gli anni, peggio! Cazzo, peggio! Anche un paio di mesi sono stato io. Grazie a Dio quando l'ho fatto il vaccino, sì, e qualche piccola raffreddore c'è, ma speriamo che non mi prenda l'influenza, perché mi pigliava ugualmente, capito? Allora abbiamo deciso che non farne più il vaccino, ecco. Anch'io gli ho fatto questo vaccino, anche io non lo facevo. E se doveva prendere questo, li prendeva lo stesso. E dovete avere più di tempo andare a fare il vaccino, o lascia perdere. Nulla vaccino. Non è garantito che non ti prenda influenza, garanzia non ce n'è. Ti danno il vaccino, però garanzia non ce n'è. Ah no, a noi ci prendeva veramente male pure. Sono stato un paio d'anni che mi ha beccato fortissimo e sento che stavo anche male, e per cui ho deciso di non farlo per adesso. Speriamo che tutto vada bene, e speriamo bene, speriamo bene. E Toro, l'hai sentito? No, Toro non si è sentito per nulla, nulla. Deve essere con i cani, sta giocando con i cani adesso, o gli sta dando il biberon, non lo so. Graziano dovrebbe saperlo cosa sta facendo, Graziano. Certo che c'è. I cani, no? E lui, Cata, è un mezz'ora che gioca con Senni. Sì. Ti può dipendere, care? Che ho preso insieme al GT3. È uguale, però non va bene né qui né tutto quello che ho visto. E allora, se non va bene al tuo, figurami dare un mio, io vado chi se boh. E allora, ce l'ho preciso al tuo, io ce l'ho. E quello lì c'ho io, non ce n'ho altro. Tira rampi. Andave, aspetta che saluta tutti quanti. Buonasera signor Giomaria, buonasera signor Bacchisio. Ok, benvenuti. Benvenuto a tutto, buonasera. Ben risentito. Anche, comunque grazie, nemmeno a quelli di Luca va bene. Me lo stavo dicendo poco fa che non va bene a quello suo. Così che ha fatto la cambiare subito, che non va bene nemmeno a quello di Luca. Sì, lo prendo qui un altro, però c'è la batteria normale, cioè l'attacca alla macchina, il cavetto per il computer e il microfono, costo 33 euro. Ma tu guarda la batteria, no? No, a guardare a apparecchietto, boh, ma chi riprende? Buonasera signor Tore. E se non va bene, non va bene, è inutile stare lì a spiracchiare. Se lui la lima e poi non va bene, quella deve mettere una pentola d'acqua e farla brodo. E tira buona buddì, grazie. Sì, una cosa, fate, un brodino dalla batteria, fate. Questo qua, GT3. Che molto costa questa batteria, grazie. Vabbè, a buttare 16 euro non va bene. Non va bene buttare 16 euro. Sono stati 2-3 euro, vabbè, ma 16 euro sono un pochino pesanti. Conviene chiacchierare con quello e mandargliela. Ti conviene. Se la conviene, se la fai mandare giusta. Questo che c'ho adesso, GT3. Il viaggio lo devi pagare tu, l'andata. Grazie, ma se ti ho detto che abbiamo la stessa radio, non è che tu la dai a me. Abbiamo la stessa radio, non va bene manco per me. Ma poi non mi interessa, cosa mi rinforzo. Va bene questa qua. Poi quando inizia a scarseggiare me la cambio, ma la prendo sempre piccola, come questa qua che ho adesso. Comunque ciao Bacchiso, ciao attore, dai. Riprendi, grazie. Oh, va bene, me la suo. No, con Luca. Fai bene. Ho fatto ancora una mattina per il pacchetto, gli asfisci. Però manda i miei prima, ragazzi, mandano i miei prima. Domani esci il male meno. Allora ecco, tu domani gli aspedisci, allora sanno già che tu è la tua la batteria, vai. Va bene, bella. Ciao Luca, buonasera. Lo sapevo che ti hai nascosto. Bene, bene, dottore, vai. Sì, fa prima rispedirla e farsi mandare della batteria precisa a quella che c'è che deve usare adesso. Basta, no? Questa batteria, le sto dando batteria, Graziano. Occidente in succaro, Graziano. Fatti mandare a battia GC3, fatti mandare a battia GC3, che quella non va bene. Alla mezza del computer. Allora, signor Tò. Sì. Aspetta che andiamo bene, andiamo. Sì. Ehi, se no va bene. Faccio per loro, per la battia. No, cioè, va bene, se non va bene basta far andare bene. In cambio c'è la contrabbarca, diceva babbo. Quello di cacchio. Non lo so io come bisogna fare, boh. Sì, come bisogna fare, è tanto semplice, no? Un pacchettino lo vai la mattina alle poste e gli spedisci, boh. Però, come stavo dicendo, a prima mandare un email, che lo sanno già che quella batteria non va bene. Perché se l'ha ordinata questa batteria? Cosa si l'ha ordinata a fare? Si vede che però lui si l'ha ordinata precisa per il GT3 e loro hanno mandato invece un altro tipo di batteria. Hanno sbagliato loro, così che gliela cambia, se no deve ripagare. Infatti non dovrebbe ripagare, ma non lo so io cosa bisogna... adesso gliela rimanda, prima gli manda le mie e poi gliela rimanda indietro e se la fa cambiare. È quello che ho detto io prima, fare le mie e dopo quando non rispondo mi rifà il pacchetto, perché l'altro dicono va bene, rimanda indietro e quello è lui, l'ho fatto che fa fare il pacchettino e la rispedisci e rimandano la batteria per i GT3. E infatti a far così bisogna fare. Se no, faccio compreso, boh. Così bisogna fare. Credo che sia così, non penso che sia sbagliato. C'è roba che lei sa qualcosa, ci illumini. E allora fatelo mandare, pensione gratuita. Però adesso per mandarla ad Amazon mi devi pagare tu. Cosa? Adesso quando spedisci, chi è che paga? Devi pagare tu. Cazzo bisa, è anche un etto, va? No, no, è poco, se pesa un etto è poco. Capito? Non so, quanti giorni di tempo c'è poi per cambiarla, per protestare? Bisogna vedere quanti giorni hai di tempo. Ci sarà un mese, non so. Bisogna vedere i giorni che sono disponibili, se una settimana, 15 giorni, un mese o due giorni, o nulla. Vabbè, se non mi dica mai, se abitai, vuol dire, discotta, me la compro, me la ricompro, tanto che usami 1,56, all'express.com, spedizione gratuita, però questa è da Google. Allora va bene, se hanno sbagliato loro già va bene. Se hai sbagliato tu, controllati, prima di parlare, non sei, fai brutti figure puro. E vado da madre, poi c'è la risposta che si è ordinata, avanti Gianmarì. Beh, sa si risulta, quello che ha scritto, no? Ci risulta sia il computer, per cui si sa subito se ha sbagliato lui o se ha sbagliato, se hanno sbagliato loro. Gli attori, e me quel cagno lì vivi, ragazzo si fa. E va, sono drummenni, sono tutti e due. Ah, sono drummenni, ma taglia... A pranzo, dopo il pranzo mi hanno dato un fastidio. Ai, purtroppo sono animali, per cui ci sono le cose impreviste. Signor Macchino, cosa ne dice lì? Bisogna avere pazienza. Poi non si può essere, hanno perso l'abitudine di stare con Tore e non lo possono vedere. Allora musicheggiano il burro. Tore, metti la corazza. No, è più che altro, è Gida che è cucciola ancora e tende a giugare, e quindi tutto che ci rientra in bocca la ruineggia. E c'è giocherellone ancora, li piace giocare, tutto ci faccia fuori in giro, quello sì, e giocherellone ancora, quanto da 6 mesi? C'è quasi un anno già, quindi è una cucciola ancora. Sì, fino a fare un anno qualcosa, giocano sempre, poi già si calma, già si calmano poi. Ahia, anzi tra l'altro stavanti da Maria. Animali, troppa pazienza ci vuole, troppa, però ormai che sta ballando bisogna che balli, finché non termina il periodo suo, so. Sì, lo so, sino a che non è bassa questa cosa, io non vi posso fare nulla, e tanto la dovrò ottenere fino al 29, la dovrò ottenere, 29 vanno a finire in campagna. Eia, un attimino, vado a bere, c'ho la gola secca. Stiano bagnando la mi Giomari. Era il signor Bacchisio. Ehi, se ci vuole poco, 14 giorni ancora, sì, a cavallo a piedi. 14 giorni, e poi sei libero. No, che lo 30 devo battere, devo stare fuori 4 giorni, quindi rientro il sabato sera, rientro. Ah, e dunque ce ne devi avere ancora? Fino a io, ma secondo come va glieli porto il 28, glieli porto direttamente. E se no fai un recinto davanti al dito? Dopo mettevi il gommone, fai un recinto. Non posso fare nulla anche io. Posso fare nulla che tanto saggini, a intemperie saggini. Ma almeno ogni giorno sono chiuse, stanno lì all'aria. Sì, no, li porto giù al coso, li porto in paese, da questo qua. Poi l'indirizzo è tutto, vi trivario. Vabbè, anche in paese. Già stanno bene anche in paese, c'è il cortile, c'è la campagna, già camminano, si divagano. E così sono in prigione, condannato all'ergastolo. E infatti là già ce l'ha il posto dove metterli e poi li lascia molto liberi, li lascia. Infatti, conviene lasciare liberi, sono meglio. Ciao, grazie, ha trovato voi ammazzoli? L'ho trovata, ma è 2008, la mia è 3008. Questa non va bene. Io? No, ne sono rimasto sorpreso, guardo più avanti, ne guardo un altro. Ma quando sei sbagliato tu, hanno sbagliato loro, quello devi accertare. Se tu hai ordinato quello lì oppure l'altra, devi accertare quello lì. Guarda il computer e sai, sei sbagliato tu. Se hai sbagliato tu, nulla da fare. Se ho sbagliato loro sì, poi spedito, se no te lo devi tenere, oppure cercare di darla a qualcuno che vi interessi. E così è Gianmarino. Sì, no, se la costa poco, per cui te ne ordini, te ne dici, già però corretta la gliela dai. Se no fai più fretta allora a ordinartela, un'altra e ricambio, stai tranquillo, boh. Certo, lo sanno lui, se sei di giro ti rovinano. Fai bene. Però quanti sai fammi vedere, tu l'abbia visto, non compito te l'abbia mai dato. Oh no, ma chi? Mi aveva fatto che bella figura puro. Perché era stato tranquillo, che non ti aveva dormito sogni di d'oro. Siamo lì a fare un pensamento in capo, ma andava bene, non andava bene, a ci fare la tema, a rifare la tente. Siamo lì in sospizio, grazie. Ora passa da Graziano che sto usando la batteria, così ti avvisi. Io che me ne fozzo della batteria, non me ne fozzo nulla io, non andate. Vuole appena appena rimasta dove c'ha l'incasso. In basso, no? Hai visto c'è un dentello della batteria? Io l'ho guardata prima di regolare e magari poi la rovino e mi servì, già te lo faccio vedere. Sì, vabbè, grazie, ma fai prima a farti la giamba e tutto canto. E la pioggia, il cartino dell'incanto. Sì, ha già compreso. Ma di quale apparecchio è quella batteria lì? E vuol dire che non è di chiuso allora, è di un altro tipo, Tu ti dormiti, grazie, tu ti dormiti. Oia. Se vedi di cose che hanno già fatto male, via, grazie. Quindi se fai il conto, alle poste ci vorranno 5 euro, 6 euro, può scegliere, se ti basta lì. Poi bisogna vedere un po'. Allora la trovi a sistemarla, a Pomponio, a Marco. Se gli serve se la prendono. E va bene allora. Ma chi? Me devo allontanare, devo andare a prendere la signora, ci sentiamo dopo. Fiatore, vai pure, vai pure. Sì, vai, vai. Qui sono i bambini che si guardano i cartoni animati. Capito, grazie, adesso lasciano la televisione per i cartoni animati ai bambini. Aspetta che aggiungo il pellet alla stufa. Pronti? Il pellet alla stufa stai mettendo. Graziano. Graziano, sta mettendo il pellet alla stufa. Finito, vai. Sono 27, grazie. Sale adesso, vai. E allora convengo qua da tutta la radio. E vai, una radio in più e una batteria. E allora se l'hai venduto, magari quello lì lo passiamo. Oppure prendi la batteria. Antonello, bisogna chiedere, Antonello magari riesce a... Passiamo, grazie, lo cambio. Il giro di conoscenze ce l'ha. Buonasera, Graziano. Avanti, ti stanno chiamando, grazie. Avanti, ti chiamo Grazia. Avanti. Ma mi senti, Grazia? Male ti senti? Io ti sento bene. Guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova, avanti. Figlio qua. Ma con chi stai modulando? Che lo dico, non lo copio. Ma chi Gio c'è? Gio Maria che si è sentato. E Tore che rientra dopo che è andato a prima. Io non mi sono assentato, mi. Certo, ma chi, diglielo. Negativo, ma chi Gio non c'è tanta cosa, come mai? La spettina. Adesso mi sono molto assentato, ti voglio, Gio Maria. Non lo so più, ma... Avanti, Marino, buonasera. Ma dove lo sta, Grazia? Cosa? Io non lo sento, Battiso, Grazia. Non lo so. Boh, non lo so, come mi senti, io lo sento tutto frusciato. Lo sento, ma tutto frusciato, Marino. Non lo so, se non è il vento mi ha portato via l'antenna, Grazia. Tutto frusciato. E io invece non ascolto per niente, 0.0, Basta accendere il ventola 27. Vai in 27, Gio Maria, andiamo in 27 allora. sono 27, grazie, siamo a Bacchisio. Beh, ci sentiamo, sì. Io non accendo adesso 27. Ma no, vedi che è? No, sono già 17. Non è accetto. Ma 17 sono, e allora no. I loghi di Nandene, pure la batteria, avare un po', pure a caricare. Poi la caricare, così anda più bene. È carica, mi sta parlando il cinesino. Il cinesino, anch'io ho il cinesino, tutti siamo col cinesino, anche Gio Maria mi sembra. Cinesino sì, Gio Maria. Cosa? Se sei cinesino. Se sono cinesino. Eia, sto usando l'apparato cinesino. Ah, eia, sta chiamarci, senti, sta chi? Sono Maria, mi senti? Caspita, forse è chiaro. Faccio una modulazione, bellissima. Avanti, Gio Maria. Ecco Martinino, con gommino vi graziare. Cazzo, fa l'antenna che a Gabicuglia non attacca, boh. E abbassa a comprendere il cazzo. Sto gommino è disgraziato. Questa cosa va bene, ma Bacchisio, cos'è un gommino, così è? E allora? Boh, non lo so. Proprio non ascolto, è 0.0, ascolto bene a te, ascolto a Graziano, ho ascoltato anche a Tore, poc'anzi che mentre stava scendendo che è andato via. Ma carica, vedere un po' cosa succede. Ma per parlare lo stesso, mi. Allora, no, stavo dicendo che sei con gommino. Ho detto che c'è la telestella e non attacchi. Strano, ma io c'è di che, gli stato carica la batteria. Già che tirate appena in carica, appena. Scusa un attimino, Gio Maria, rimango in ascolto, guarda. Voi modulate, già sono in ascolto e faccio un lavoro che faccio, guarda. Avanti, Gio Maria. Là. Perché la corrente la consumano loro. Io c'ho un'altra, ancora non l'ho toccata, io sto usando sempre la batteria. E una che ancora dentro la busta non l'ho aperta da quando è arrivata e mi sto usando solo una, capito? E non l'ho mai caricata anche quella, capito? Però già l'accendo poco e niente quella lì, capito? Però non è che si scaricano tanto facilmente e secondo quanto la usi pure, capito? Siccome quando è acceso che non parli e dura molto di più, ma se tu parli dura molto di meno anche. E come ce l'ho là, vero, insomma lì? No. Già l'ho provato, tutti e due originali, dai. Quelle grandi, 3008, tutte e due sono. Già c'è scritto sulla busta, capito? Sono da 3008 tutte e due, capito? Anche io volevo anche quella più piccola, l'originale proprio, invece quella lì non me l'hanno mandata, me ne hanno mandato due grandi solo e basta. Boh, e la piccola non me l'hanno mandata. E 43 euro c'è il microfono. Le cuffie e tutto, capito? Grazie, cosa ti avevo dato dalla radio? Il microfono? Vabbè, il microfono a parte l'hanno mandato anche a me, però a me non mi hanno dato il cavetto da attaccare al computer, ma con quello mi hanno dato il tutto per quello. Oh Lucia, se ti serve ti do anche, te lo devo dire, il caffetto e ti do anche il CD. No, non mi serve Giovanni, no, giusto per dire che non mi serve più. No, tranquilla, va bene questo. Poi ce n'è e ne avanza pure. Comunque prima sentivo Marino. Marino, ci sei? Dovrebbe essere Marino. Ascolta, Giovanni, continuate, là, che mi faccio un lavorettino qua. Continuate, mi sto ascoltando, dai Giovanni, grazie. Marino, mi senti? Marino, lo senti a Luca? Fai un passaggio a Luca. Marino, mi senti? 1, 2, 3, prova. Ma neanche, ho visto il LED che si è acceso e basta, non, modulazione zero. Vabbè, io lo sento, dai, basta, ma lo sento. No, non ascolto, Gio Maria. Ok, va bene, non ti ascolta. Ok, va allora, vai, ci sentiamo, vai, un po' precisamente. Sei anche in ascolto, continuate, dai. D'accordo. No, a me mi avevano dato il cavetto, i CD, microfono, auricolari, cos'altro c'era? Ah, eccomi, si chiama adattatore. Boh, non mi hanno dato altro. Ah, ma mi ha dato il microfono, l'auricolare. Basta. Ma esce male ancora il microfono. Adesso lo vedo un po'. Appena ho più tempo una macchina mi metto, lo smonto e gliela cambio la cassa. Vediamo un po' se esce meglio. Sì. Giomari, qui blu va via, c'ho qualche capsula di... se riesco ad adattarli quella del telefono anche, ma piccole. Oh, a te parlo gli adatto l'altro microfono, più buono, là. Che quelli sono microfonino alla bella meglio, però già si sentono ugualmente. Gli adatto l'altro microfono, fa il male, chiata. Come ha fatto Tore, Tore ha messo l'MB5 attaccato, ci puoi immaginare? Sì. Mia Luca, così proprio, c'è un ostacolo, sei fregato, è così. Per parlare qua alla Terolce, per Sassari, fanno abbastanza capire questi qua. E poi Marino oggi è proprio nulla, lo sento tutto incasinato e io non ci arrivo. Penso che il vento abbia fatto capotato l'antenna. Oh, ma che c'è questo particolare? Io se attacco, se metto il gommino, non ti sento io, Magari tu senti, tu nemmeno a me senti tu con il gommino. Sì, io ti sento con il gommino, ti sento bene, ti sento con il gommino. Ti ho sempre ascoltato. So proprio, io me lo so. Provo con il gommino, a me non mi ascolti, ma io a te sì. Comunque, dai, già vanno bene queste... Ma chi io? Qualche anno addietro una... Il che è fuori? Luca! Ci va anche bene. Escono bene. A me senti tu, Luca? Un po' di più, 5 watt se ne sanno. Luca! Ah, già mi senti tu? Benissimo, Giovanni. Ma chi se lo fa, sai? Ma chi se lo fa, ragazzi? Ma chi? A mi senti? Via, ti sento benissimo. Come poco fa? La stessa cosa, non cambia niente di ascoltarti. Tu e non ascolti a me. Non mi sento, ma chi se va? C'è qua palazzo non passa. Va bene, riprendi, grazie. Mattiano sta condendo la batteria. No, le prima di quella ringa. Ma la sta facendo l'insalata, la sta facendo, capito? E quello non risponde adesso. Mamma, diglielo tu a Graziano cosa deve fare. Graziano, un mese sì. Beh, Giovanni, cambiato? Sì, ho cambiato, sì, io lo gomito non mi senti, infatti. Anzi, non ti sento, Io dovete ti sento benissimo col gommino. Benissimo, come adesso? Oh, strano, ma chi è? Che io riesco a passare, ma qua tu lo passi, ecco. E sono a parte indietro di casa, in cameretta, a parte indietro, si può immaginare. Cazzo, se io arrivo dovresti arrivare anche tu. Eppure voglio provare col gommino a vedere un po'. Aspetta che prendo la radio col gommino. E dai, accendi di nuovo quello là, metto l'antenna. Bene, mi senti, grazie. Bello, bene, mi senti. Grazie! Ma chi sono io? Vediamo se... Ma tu mi senti, grazie. E che Luca ti ha inviato su per questo? Io lo Battisio, tu Battisio di Giammi. Ma è caduto. Lo sapevo come secondo nome. Aspetta, facciamo entrare questo Brecchi. Avanti. A me non mi sente nessuno, già. Sono Andreoli, già me la graziare, non mi rispondi. Ma che forse Giomari non ti intendi? Sono rientrato comunque. E ho detto una Battisio, boh. Ma perché se non lo sento io, col gommino non lo sento. Ma credo che non possiamo anche a me. Grazie. Ma Graziano non mi senti a me. Ma mi senti? Oggi Graziano non mi senti, mi sentiva sempre. Ma chi so? Aspetta, Giomaria a vedere. Ma chi? Ma ascolti a me. Deve essere che Graziano e Giomaria non ti ascoltano. Vabbè, aspetta che sta cambiando. Resta la poletta. Sto chiamando a Graziano, sto. Ma non mi sente Graziano? Non sono masturbato, non sono masturbato a Graziano adesso. Graziano. Tony, mi ascolti tu? Sì che ti ascolto, abbastanza bene. Graziano, mi ascolta? Come ti mai non ascolti Graziano? Ascolto, cioè lui a me dice come ascolta. Boh, secondo in che punto sì? Infatti, secondo me si mette, perché lo sentivo sempre qua e adesso non lo sento, né a lui né a Mattino. A momenti fai il set attack e basta, non sento altro. Tu non ascolto più, no, nessuno mi ascolta. Adesso ti ascolto. Oh, meno male. Allora ti sei spostato. No, ne ho levato la radio dal caricabatteria. Ah, ecco. Essendo caricando la batteria non mi ascolti, così è. No, a torre sento. E a Battigio a momenti lo sento bene, a momenti lo sento male. Beh, infatti è strano, stavo sempre chiamando e non mi rispondevi, mi risponde Battone e Luca e tu non mi rispondevi, ho detto, boh, strano che Graziano non mi senta. Va bene, Tore, a te vai. Dipende da come si mette Graziano e secondo te se si sposta no, non lo ascolti più, né tu né Battigio. Ecco cos'è. No, è inserito nel caricabatteria. Mia, adesso lo torno a inserire e prova a parlare su Gio Maria, poi se ti sei. Graziano, mi ascolti. Claro, però è. Claro che non mi senti, no, non faccia ricezione bene quando hai inserito nelle caricabatteria. Cata, è tutto un impegno di vesso, Vedi un po', vabbè dai, io chiudo, dai, che c'è gente. Per cui ne approfitto, buon primo attore, Bacchisio, Graziano, a domani se coincide, tu, ripeti tu, io chiudo. Sì, ok, ciao Gio Maria, ci sentiamo domani, dai, facciamo così, ok. Va bene, buonanotte. Ok, riprendi Bacchi. Ciao Gio Maria, buona serata, grazie alla compagnia, saluto alla famiglia Correa, familiare. E sentiamo domani se tutto ci coincide. Bye bye. Avanti, grazie. Ciao Gio Maria, buonanotte, buon tutto, e anche io adesso chiudo. Stavo dicendo, Tore, a te ti sento, anche con la batteria inserita nel caricabatteria. A Bacchigio lo sento malissimo e a Gio Maria non lo intendo bannuta quando è in carica. Solo a te sento, Tore, sarà perché sei più vicino, boh. Va bene, detto questo, saluto a tutti e due, a domani, ciao, vai tu. Sì, ok, ciao, grazie, stammi bene, a domani, ok, riprendi Bacchi. Sì, ciao Graziano, buona serata, grazie alla piccola compagnia, saluto al Correa familiare, e ci sentiamo domani se tutto coincide, ciao, ciao. E allora, signor Tom, ritirata lei la signora. Sì. Fate in fretta. Cataghiti, bisogna parlare di agire, bisogna essere un televisore acceso. Ah, a fare compagnia ai cani. Sì, hanno avere un televisore acceso, no, non dice nulla. Sapete, hanno un televisore, buh. Magari tu lascia buio e allora fanno casotto. Invece con la luce del televisore, con le voci, si distraggono. Infatti, ma che cosa che posso fare e fa così? Così vai i bizzini minori, va? No, ma è tanto quello bianco, no? È la lupa, che è giocherellona. Ma poi la te la puoi portare anche appresso, volendo. Il bianco lo lascia a casa e la lupa la porti appresso. Poi, paro paro che pensi, conviene lasciarla in occhi. Cata. Ah, adesso si sta cambiando pelo. E spazzolata vuole più spesso. Sì, non gli ha detto che pazzurendi. Cata, non basta che devi su caccia poi in terra. Non so, quelle spazzole di coso, quelle rigide, oppure quella che si fa in ferro per i cani bruchi, per pettinare i cani. Sì, purtroppo le dovrò tenere fino al 28 o il 29. Ma guardo di portarglieli il 29, il 28 io. Guardo di portarglieli, anche il 29 l'ho pusso. Noi abbiamo 16, sta andando, la giornata sta passando. È vicino al 29. Sì, lo so. Avevo una sanghietta e due lì. E ne faccio una sanghietta e poi via. Poi se ne vado in ferie. E poi tua figlia andò fino a prenderli. E infatti poi mi faccio quattro di in ferie blu e ovvora. A me non c'è da andare, ti fai una passeggiata ogni giorno, ogni due giorni vado a trovare i cani. Quando rientro vuol dire, vi benseraggio a andare a ciappalli. Se no ti abbandonate via. Sì, se no non mi dici che li lasci abbandonati e tutto. Ah, ma già ci vado, se fa bel tempo però. È a buon tempo, infatti. Esce freddo, è tempo feo, al tempo dei funghi devi andare. Purtroppo mi devo fare così, mi devo fare, se no mi voto do quattro di fura, mi voto, poi un'andata e una durata in aereo. Sì, è così proprio male, e anche quello è un impegno grandissimo. Devi badarli, devi mangiare, devi pulire, devi farle, tutto è peccato, tutti i malassuti ci sono. E purtroppo, devo far così. Ma ho fatto due ieri in nave, due ieri in aereo e si è cappuccio. Due ore d'aereo, perché? Sì, due ore d'aereo andare e due ore d'aereo a tornare. Due ore impiega? Sì, due ore impiega andare a Londra. Quando è che vai tu a Londra? Il 30 all'una e mezzo parte, sei puntuale. Sei puntuale? Ah, quelli sono puntuali, non sgarrano. Sì, ma i gigetti ce l'ha di vizio di non essere mai puntuale. Sì, quello, rompe i piedi a stare lì puntato, eh. Oh, quando mi rompe hai detto. Dunque, due ore, si parte a luna, alle tre sei già a Londra. Dove già sei così? Dove già sei così, ma non lo so però. Anche i cani ti porti appresso? No, i cani li devo portare in paese, da questo qua li devo portare. Cioè, li tiene questo qua. Ma li lasci qua, capito? Capito, e vabbè, una passeggiata ti fai. Come andai, portaci una londinese. Ehi, chi sei che fozzo, eh? Chi sei che fozzo? Ma lì ce la metti, ti do un troller io grande e la metti dentro. Perché tua moglie porti che grazie va al Tore. Ehi, chiatta. Ah, mi si è pigliato un pupazzetto, si è pigliato. Ehi, una passeggiata, dai. Una passeggiata ci vuole intanto. Ah, auto, un pupazzetto auto. Pensa un po' di. E sei entrato. Ho capito, cos'era? Un pupazzetto bianco, si è pigliato. Così. E così se vola. Poi fai vola, fai. Sì, certo. Oh, Giulia, andiamo, dove andiamo? Certo. Oggi tu non è più vicino, no? Non è Bacchi. Chi? A Marino? Oh, la Giovanni. Ah, oh, anche stasera, la macchina. La macchina ho visto, a fianco al garage. Stai prendendo un po' la ultima da letto. Sì. Senta, si andando a Rugoso, si andando già a giugà. Aspetta che le fiaghenne. Ma cosa? Al ciclo si va a giocare a biliardino, a biliardino, a biliardo. Ogni sera. Io so come non fanno a stancarsi. A me già non piace, sapi, io gozo a giocare sempre a biliardino e coso. Ora deve darci che si svaga in chivi. Ah, ma mi dà la brutto, oi, c'è sempre a picchirvi. Non è che volte siamo andati, sono a picchirvi i cadri, i 30 chili. No, non è ambiente per me quello lì. Io ho la testa dell'altro circolo, di quello di qua, si affrontava che cosa? Al garage. E mi dice Mario, tutti i cosi di giù, se tanto come te stai, se io ero fallito prima lì. Ci vado una volta al mese. Niente. E no, che invece a me mi viene duro di gabbo e mi tocca fuggire dai chivi. No, non è cosa va in me, ne manco il suo. Oh. E manco mai che vorrei comprare a viro. No, io ando, mi piglio un caffè che adesso che scendi. Mi piglio un caffè, io ancora, andiamo sempre. No, non è ambiente per me essere chiuso. Ma chi? Io manco pochissimo entro. Se c'è entrare entro mi, di vero Balsanna. Ma c'è entrare, entro in chi, beve un caffè e torna sì, no. Ho visto che assai. Non sono ambienti per me, ormai ha già finito di fare singosi. Io al centro vado e prendo il caffè e basta. Non ho niente. Quando ho ogni voce di papà, quando mi lamento. Magari trovo Mario Puri di padrone. E beh, non ti piglio un caffè, io poi un caffè fallo adesso che mi rendi. Sì, purtroppo no. Tocca fare così, tocca fare. Anche se no è da bellibi. No, sai, in carina, non saranno. Entro, esco, boh. Stamattina. No. Ieri mezzogiorno stavo passando e stavo chiudendo, ma io dico, non da voi, detto, se mi dai un caffè e tu mi rompiglio, se no ciao, no, sta cercando e ti gioco un caffè. A me dai cercando la questione da stare, se mi entrato hanno fatto un caffè e mi sono andato. Ehi, che aspetta. E in campagna avrei dovuto oggi. Oh, se una fottia, era un vento che ti lasciava in piedi. Ma raffiche, una cosa spropositata era. E infatti ha messo maestrale, ha messo, domani è ancora peggio. Quando doveva essere ancora più fredda? Domani più fredda. E io dove che fate freddo non vi paro. E lo frego un tempo, lo frego io il tempo. E l'unica cosa è far così. Sino a giovedì dovrebbe calmarsi. E l'inverno è arrivato, ma è arrivato tutta una volta, non siamo abituati noi dalla svolta di temperatura dall'alto al basso. E facciamo così, facciamo. È l'unica cosa. L'unica cosa a far così è boh. Cattro. Quando si fa di freddo, a me mi tocca essere romanzano verso gli 6:20 a fare la chisci. Avevo una mezz'oretta poi risalire. Pensate, entro la sera si sta così bene, è una meraviglia. Saranno oggi, stasera dove ho preso, l'ho aperto, siamo 50-60 gradi. Minimo, non si può che ripirà. Perché c'era caldo, c'era dentro. Quando sono chiuse il sole scalda, viene a mandare calore all'interno e tu con la Brianna sta a fare gli occhiali, non vedi nulla. Oh, allora già peccato così. Sì, ma devi stare attento, quando stai dentro usci fuori un colpo di grazia. Purtroppo. Cioè dentro si sta bene. Pensa un po' di sì, allora, ma ci stai in chivi. Dentro le piante che ci sono ci godono, crescono più fisicamente bene, capito? Adesso infatti uno sperimento che sto facendo quest'anno, ho piantato le fave primizie con i piselli e le fave sono già tutte fiorite, adesso vediamo se escono. Ah, in serra li hai messi? Caccia, hai fatto l'esperimento, chissà se sono fiorite dovrebbero uscire anche se sono fuori stagione. Sono tutte fiorite, tutto bianco, bello, è un fiago, io sono fabbrico, non posso prendere odori, infatti non sento più niente, apro la porta, guardo, sala tutto, vai. Quando vetrai devo aprire le porte dalla mattina presto e poi magari entrare la sera quando ha cambiato aria. Con il coso del fiore, secondo com'è ti fa capogiro, ti fa così, A capogiro ti fa, fa capogiro. Dove vedo un piffero, un ceccio di buono in capo non finì più. E allora io lo centro. Invece fuori non mi fanno niente perché fuori non... l'aria, l'odore lo trasporta, invece che dentro la serra è richiuso, è una scatola. Infatti, che cosa è così? Troppo, il fiore stesso che fa fare a capogiro. Cata, entri in orbita. No, ieri sono andato a controllare se c'erano le pallette, se stavano cominciando a scegliere, ma c'era fine di sera, l'ho aperto di mattina, sono fino aperto, stava bene. Ho visto che ancora con qualcheduna proprio una su mille stanno cominciando a scegliere. L'altra è nulla, l'altra c'è qualche verme e sta mangiando il fiore. Ah, se esce, ne esce, se non esce uno sfizio voluto prendere quest'anno, provare. No, già a uscire già escono, sì. Una volta che sono tutte fiorite cominciano a uscire il frutto. Si spera che esca il frutto, se no. Perché sono alte 60-70 cm le piante e sono tutte bianche. Dentro la serra. Per il fuori ancora devo aspettare. E come vedi che ne stanno scendendo i fiori, allora vedi le fave fuori, vedi. Ancora non se ne faccio. Poi ce ne ripeto, ce ne sono 4-5 solchi mi sembra. 5 solchi lunghi 20 metri, lungo guarda la serra. E ci a noi ho visto 5-6, non di più. Bisogna... devi aspettare ancora, mi pare che la fioritura dura una settimana. E anche di più di una settimana. Adesso vediamo un po' la settimana cosa succede, se le cose cambiano. Pazienza ci vuole, pazienza. È così, sì, dura... Io so da quando le piantava mio padre, lo so che ne metteva e poi molte le lasciava seccare. Sono all'esterno ce le ho, però sono piccole ancora. E lì se blu, chissà condizioni, questo quello che sto facendo è un po' strano. Non saprei proprio come vanno a finire. Infatti. Aspettare un pochino e poi già si vedono quando cominciano a crescere. Aspettiamo, vediamo un po' cosa succede. Sono coso, c'è Graziano che sta aspettando le fave. Che non mi muove. Allora sì, la gita. Dai, ne vuoi tre cassette a mettere in freezer. Sì. Se ne va, cagato nei bolsi, una cassetta, ne manco buru. No, se ne escono. Se ne escono, ma non così tante, perché non c'è tanto. E poi bisogna vedere quante caricano le piante, se mantiene tutto il fiore, se ne cade, è quello da vedere anche. Infatti, quello è... di avere la duratura della pianta anche quant'è. Certe volte ti va bene, certe volte non va bene. Non è sempre che le ciambelle escono col buco, no? Escono anche senza buco, dunque. E quello lì bisogna aspettare, vedere un po' cosa succede. Se la fioritura va bene, raccoglie. Se la fioritura va male, raccoglie nulla. Vabbè. Purtroppo, magari così bisogna fare. Certo. Vabbè, già lì tu adesso le stai provando. Io so da mio padre che le metteva in terreno e metteva a coso per portarli in queste frutte e verdure al mercato e dava a vendere. Quindi, e poi ne lasciava qualche cosa per seccarle. Infatti, volevamo che si fosse al mercato, anche il babbo faceva così, l'oliveto, l'oliveto che penso che c'ho io, babbo lo seminava a farveli, tutto babbo lo faceva, poi quando cominciava a scarseggiare, prendeva e macinava tutto. Infatti, anche mio padre faceva così. E c'erano fave, c'erano carciofi, c'erano pomodori, le cose che non vedo in Sagosa, e finucchi, e sedano, e di tutto c'era. Quello sì, c'è un po' di tutto bisogna mettere, un po' di tutto, perché cosa succede? C'è un pieno di qualcosa per mangiare, almeno per avere la provvista di casa. E poi quando c'aveva il giardino lì, l'abbiamo regalato insieme alla casa, e c'era roba lì piantata, ogni tanto me ne facevo un po' io, me ne facevo, poi quando se ne è andato, ha toccato a me a farmene un battato, i finocchi, i cosi c'erano, i sedano, sono fatto. E altra cosa pure c'era che non mi ammento. A più c'erano piante di albicocche, pere, cacchi, aranci, c'erano. Infatti, un po' di tutto. Io pere ne ho due, tre, quattro alberi. C'ho le pere coscia e le regine. E poi un albero è quelle primizie, quella di San Giovanni, dicono siamo primizie e vengono insieme alle altre. E poi c'è un albero, non è vero, è la bella gamusina, quella piccolina che diventa nera. Capito? Quelle sono le pere, sono quelle lì. Poi c'è la bicocca e i fichi. C'ho i fichi primizi, quelli bianchi, proprio i primi che vengono. Deve sembrare un melanzane di quando sono veramente grandi. Quelle che fanno, che escono in giugno. A maggio, a metà maggio sono già i fichi. L'anno scorso, ai primi di maggio, avevo i fichi. E ho avuto un casotto, durante una mia non sapevo cosa fanno. Allora, dimmi quando bisogno che vengo a me il vostro caseppaggio. E mi moglie di piacermi, a me non tanto, ma a me moglie di piacermi. Che cosa so? I fichi. A mia moglie piacciono, a me non tanto. Ma io non ne posso mangiare, dunque non ne mangio. Ma quei fichi bianchi l'anno scorso fino a agosto c'erano, anche metà agosto era l'albero pieno, perché si prendeva una volta ci veniva la seconda perché dice oh non mi piacciono più, basta, l'ho stufato, e le cornacchie si divertivano a bucarli. Guardaci che vicini buoni e pure i bizzoni, i passeri ci sono anche che ci vanno. No, le cornacchie, più le cornacchie. Infatti c'era un albero di fichi neri nel piazzale, non so se l'hai visto, dove giriamo con le macchine, lì c'è un albero di fichi neri. Abbiamo messo la rete perché di quelli non riusciva a mangiare neanche uno. detto a mia figlia che mi piace, mi piacciono i neri. E allora ho messo la rete e la corretta ci ha fottita. Che andiamo, andiamo. Bisogna fottere le ricurracce, ma se no bisogna pigliare la pezzangone. Ma la so, se sono monchi, sono, non si fanno tirare, no. Quando sei senza niente in mano, fai quello che vuoi, ci passi vicino e si sfottano. Ti vedo qualcosa in mano, o a un chilometro lontano. Io, mio padre c'aveva l'orto, una carabina gli faceva pure, a uno a uno. E la carabina la mia si è rotta la molla, che è disarmato solo. Ebbene, non riesci a aggiustarla. Portare in armeria, non c'ho mai tempo di portarla. Certo. Che andiamo, andiamo. Ma quella va denunciata a vuole, no? Depotenziata, non c'è bisogno di cosa, di permesso. Solo però devi denunciare in questura perché c'è un'arma. È un'arma anche quella. Solo che è depotenziata, capito? E allora mi lascia la galgue. Campagna non naggio io. Pegato, ma farò di rassegno. Infatti. La domenica quando andiamo a pranzo giù in campagna, poi dopo pranzo facciamo il rassegno. E io gemmo un poco. Infatti la molla è partita per quello, che un giorno eravamo in tre a turno, 5 colpi per uno. E tu che ha travagliato da lì, è partita la molla. Sì, anda, beh, anda, che te. Ui, ui, ui. Vabbè, dai, ma chi? Ci sentiamo domani, se coincide con tutto quanto. Andate, sentiamo Bacchi, ok. Ciao Tore, ciao, buona serata, saluto la signora e se tutto coincide domani la sentiamo ancora, se Dio vuole. Ciao Tore, buonanotte. Sì, ok, ciao Bacchi. Ciao, buonanotte, ciao a tutti. Cagoni!